Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko ad Alessandro Pieravanti del Muro del Canto, band che si esibirà questo venerdì 19 novembre live al Locomotive Club di Bologna. Ciao Alessandro, benvenuto a Radio Città Fujiko. Ciao e bentrovati. Volevo iniziare questa intervista dall'uscita del vostro ultimo singolo che è uscito quest'estate, il singolo Controvento. Di che cosa tratta questo pezzo? Ma in realtà, come molti dei pezzi del muro, racconta di tutte quelle energie che vengono fuori dall'unione tra le persone. E quindi in questo caso prende come pretesto alcuni momenti storici e li trasforma in qualcosa di più contemporaneo, raccontando di situazioni comunque di avversione da parte del popolo che si ritrova in difficoltà, che trova nell'unione, nel mettersi insieme una soluzione, una chiave di lettura ai problemi. Singolo che tra l'altro anticipa l'album che uscirà invece nel 2022, il vostro prossimo album. Ti chiedo se puoi anticiparci dei contenuti di questo nuovo album e che cosa si deve aspettare il pubblico da questa nuova uscita. Beh, stilisticamente già in Controvento si capisce che forse c'è una direzione un po' diversa dal solito. E adesso stiamo già presentando nei concerti altri due brani del disco nuovo, uno sentito La Cometa e un altro sentito La Lupa, e quindi chi viene ai concerti già può avere un assaggio abbastanza consistente del nuovo disco del Muro. E come sempre sarà un mix tra storie, diciamo, un po' più sentimentali, quindi relative alle dinamiche tra le persone, e storie invece un po' più sociali, politiche. So che quest'estate voi avete fatto un tour e adesso, ancora adesso, continuate a esibirvi live dopo questo periodo di chiusura dei locali e questo fermo della musica dal vivo. Ti chiedo come ci si sente a ritornare sul palco dopo un periodo del genere. Beh, c'è una grossa emozione, una grossa soddisfazione e soprattutto il piacere di vedere la voglia negli occhi delle persone di voler uscire, confrontarsi, di fare esperienze, di partecipare a eventi culturali. Quindi devo dire che la cosa più bella è il feedback che si dia indietro in termini di emozioni da parte di chi viene al concerto. Quindi noi ci sentiamo come chi, diciamo, risale in bicicletta dopo tanti anni e non si scorda come si fa. Però poi invece l'emozione dell'incontro con le persone è un'emozione nuova che ci lascia molto piacere. Questo nuovo progetto uscirà dopo un periodo che, come dicevamo prima, molto difficile. Quanto ha influito la pandemia a livello artistico sui vostri progetti e sulla vostra musica? Beh, ha influito talmente tanto nelle vite di tutti che è impossibile pensare che un qualcosa di così intimo come scrivere canzoni non sia stato influenzato da un evento così grande, quindi sicuramente lo è. Vogliamo staccarci dalla narrazione della pandemia in chiave didascalica, quindi nel raccontare le difficoltà dei distanziamenti o delle cose, ma cerchiamo noi di trasformare emozioni positive e negative provate in una situazione di coercizione come quella che abbiamo passato, in qualcosa che invece possa essere bello e gradevole come una canzone. Alessandro, ti faccio un'ultima domanda: che cosa si deve aspettare il pubblico venendo a un concerto del Muro del Canto? Beh, chi c'è stato lo sa, chi non c'è stato probabilmente potrebbe scoprirlo guardando dei video online, però per chi non andrà a vedere dei video online dei nostri concerti può aspettarsi sicuramente molta partecipazione. Noi la consideriamo una festa popolare, si canta dall'inizio alla fine, si balla dall'inizio alla fine, si sta insieme, ci si confronta, ci si parla, si racconta, e quindi, diciamo, sono sempre molto sentiti e partecipati. Il pubblico è sempre parte attiva dello spettacolo e per noi è ogni volta una festa. Quindi chi ha il dubbio se venire e scoprire un gruppo che magari ha solo sentito, a cui non ha mai partecipato a un concerto, gli dico di venire, che probabilmente resterà piacevolmente sorpreso. Alessandro, io ti ringrazio e invito tutte e tutti a partecipare al vostro concerto di questo venerdì 19 novembre al Locomotive, e grazie e buona fortuna per tutto. Grazie a voi dell'intervista, un saluto a tutti gli ascoltatori.